105. Uè, infami! Allora oggi sono qui per dirvi un segreto. Eh sì, perché è bene che voi sappiate che nella vita potrete fare o diventare quel cazzo che volete. Basta chiamare Scarcella. Non ci credete? Allora ve lo spiego io. Se vuoi avere tanti soldi, puoi far la fotomodella, chiama quel grande banfone di Scarcella. Se ti senti fuori forma e vuoi diventar più snella, chiama quel grande banfone di Scarcella. Se vuoi diventare un clown forte più di Pulcinella, chiama quel grande banfone di Scarcella. Vuoi ristrutturare il bagno, scegli la miglior piastrella, chiama quel grande banfone di Scarcella. Oh, quindi avete capito come si fa? Qualunque cosa volete fare o diventare, basta chiamare Scarcella. Vabbè, per sicurezza ve lo ripeto, eh. Allora, pronti? Ve lo dico per l'ultima volta, eh. Aprite bene le orecchie. E un, due, tre, vai! Se ti piace far l'amore, fai contenta la cappella, chiama quel grande banfone di Scarcella. Se tuo figlio a scuola è un merda, vuoi falsare la pagella, chiama quel grande banfone di Scarcella. Se vuoi fare il sesso anale, ma tua moglie si ribella, chiama quel grande banfone di Scarcella. Se vuoi un taglio alla moda, coi capelli alla scodella, chiama quel grande banfone di Scarcella. This is a zoo only for you. Allora, direi che riassume un po' il contesto. Cioè, Dona è veramente. Dona, ti assumi tutte le responsabilità. Sono Marco Dona, Testo è stato lui. Scritto da Marco Mazzoli, grazie. No, non credo proprio. Musiche di Wender, lo ricordiamo. Sì, sì. Coretti sotto di Paolo Noyes.